Sefer Rishon, libro primo, salmo 1. Felice l'uomo che non cammina secondo il consiglio dei malvagi, e nella via dei peccatori non si ferma, e nel consesso degli stolti non si siede, ma anzi nella Torah del Signore è il suo diletto, e sulla sua Torah medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso canali d'acqua, che il suo frutto dà a suo tempo e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa riuscirà. Non così sono i malvagi, ma piuttosto come pula che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio e i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché conosce il Signore la via dei giusti, ma la via dei malvagi si perde. Pace e gioia. Ho letto il primo salmo nella traduzione di Fiorenza Monti Amoroso, nel libro da lei curato, per le edizioni Gribaudi 1999, avente titolo Tehillim, i salmi, con la presentazione di Carlo Maria Martini. Ashre Ha'ish, beato l'uomo, felice l'uomo. Scrive Enzo Bianchi: visto che i salmi 1 e 2 costituiscono il prologo dell'intero Salterio e sono racchiusi dal concetto della beatitudine dell'uomo, primo salmo al versetto 1, Ashre, beato, felice l'uomo, e il salmo 2 all'ultimo versetto, il 12, sempre lo stesso termine, beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. E visto che i salmi 146 e 150, che costituiscono l'epilogo laudativo del Salterio, sono interamente pervasi dalla lode di Dio, è l'intero libro del Salterio a essere racchiuso, secondo il tipico procedimento stilistico della letteratura ebraica detto inclusione, dal doppio registro della beatitudine dell'uomo e della lode di Dio. Il Salterio è così un libro dell'uomo e di Dio, un libro teandrico, che indica all'uomo la via della felicità, affermando che questa si compie nella lode di Dio. Nei salmi 146-150, la radice HLL, lodare, ricorre ben 31 volte, e il salmo 145, che di fatto è l'ultimo del corpo del Salterio, essendo i salmi 146-150 l'epilogo, è, come recita la sua soprascritta al versetto 1, una lode, una tehillah. Se consideriamo il primo salmo, non duriamo fatica, dice Bianchi, a riconoscere che deve essere stato composto in un'epoca molto tardiva. Suppone infatti il libro di Geremia, perché imita un brano appunto di Geremia. D'altra parte, l'ispirazione tipicamente sapienziale del Salmo già di per sé suggerisce che non può risalire ai primi tempi della monarchia, e tutti i critici sono concordi nel riconoscere l'epoca relativamente tardiva della composizione di questo Salmo. Tuttavia, è il primo Salmo, è il Salmo che apre tutto il libro. Prima del vero colloquio bisogna che l'anima si prepari alla preghiera, e l'anima si prepara alla preghiera con questo salmo che la introduce, parlandoci di colui che è il vero soggetto della preghiera, l'orante stesso, che medita la legge, che prima di parlare ascolta la parola di Dio e la medita nel suo cuore. Un commentatore anonimo scrive: la prima parola del salmo inizia con la prima lettera dell'alfabeto ebraico, Aleph, mentre l'ultima parola comincia con l'ultima lettera, Tav o Tau. Aleph allude all'ineffabile mistero dell'unicità di Dio. Così il primo salmo, porta d'entrata della preghiera salmica, abbraccia in modo simbolico l'intero arco delle parole, cioè della vita posta sotto il cielo del mistero dell'unicità di Dio. Il salmo ha un sapore sapienziale e raccoglie al suo interno una benedizione e una maledizione, espresse con l'immagine delle due vie, vale a dire due destini, quello del giusto e quello del malvagio. La struttura poetica è ritmata su un dittico che sviluppa due ritratti. I versetti da 1 a 3 contengono il disegno della fisionomia del giusto, mentre quelli da 4 a 6 presentano la figura del malvagio. Lo schema spaziale delle due vie è un classico dell'immaginario biblico. Esprime la necessità della scelta e della decisione. Non esiste una terza via di compromesso. La via dei giusti è come la luce all'alba, che aumenta lo splendore fino al meriggio. La via dei malvagi è come oscurità, dice il libro dei Proverbi, capitolo 4, versetti 18 e 19. Il libro del Deuteronomio, che vuol dire seconda legge, così si esprime: vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e la felicità, la morte e il male, la benedizione e la maledizione. Perciò scegli. Deuteronomio capitolo 30, versetti da 15 a 19. Nella prima tavola del dittico è descritto il giusto e la sua via, prima negativamente, versetto 1, e poi positivamente. Vi è una progressione dei verbi al versetto 1 che traccia con finezza psicologica la tentazione e la caduta. Il primo verbo è entrare, halach, seguire dunque, anche. Esprime curiosità a livello epidermico nei confronti del male. Segue poi il verbo indugiare, amad, che è un fermarsi in ascolto per arrivare alla fine alla partecipazione totale, alla connivenza totale e abituale, dettata, terzo verbo, dal sedere nel consesso dei diffamatori, cioè degli empi, in ebraico yashav. Il giusto è colui che sa vincere questa tentazione in tutti i suoi gradi. Segue poi il positivo della via del giusto, versetto 3. Essa si fonda sull'adesione alla legge, alla Torah, che non è un elenco sterile di norme, di precetti e di prescrizioni, ma il mostrarsi di Dio, a cui deve rispondere l'uomo con la sua libertà. Per due volte è ripetuto il vocabolo legge, Torah, quasi a sottolineare la sua centralità. Si tratta di una celebrazione intensa della parola di Dio, e quindi della Bibbia. L'immagine della vita del giusto è un albero piantato, versetto 3. In un panorama desertico e assolato come quello palestinese, un albero verdeggiante e carico di frutti, posto lungo una corrente viva di acqua, diventa un simbolo parlante di gioia, di prosperità, nell'ottica della retribuzione di una giustizia premiata. La via dei malvagi si presenta, come dicevamo, nei versetti 4, 5 e 6. Al centro vi è il verbo alzarsi, reggersi, in ebraico kum, il termine carico di allusioni militari, processuali, oltre che allusive a un comportamento, al gesto fisico del drizzarsi in piedi. I malvagi non potranno ergersi sicuri nella stessa storia umana. Il salmista traduce in versi l'ottimismo di una certa sapienza biblica convinta che già ora e qui Dio interviene per raddrizzare e correggere l'umanità distorta. La prospettiva futura per i malvagi è ancora peggiore. Infatti, essi non potranno alzarsi a parlare e a difendersi nel giudizio finale. Non riusciranno a reggere di fronte all'accusa. Di conseguenza, saranno esclusi per sempre dalla comunità degli uomini giusti e buoni. Il Salmo è un vigoroso appello alla scelta del bene, della verità e della giustizia. Solo in questo si realizza la beatitudine, un antico verso della stele del faraone Amenofis I, conservata presso il Museo Egizio di Torino, recita: «Beato chi ti possiede nel cuore, infelice chi ti combatte». E tornando a dare la parola a Divo Barsotti, dopo che il primo Salmo ci ha così insegnato chi è colui che deve pregare, che può far sua la preghiera di questo libro, libro meraviglioso che Dio ha dato all'umanità perché essa possa volgersi a Lui, ecco che il secondo Salmo ci dice il contenuto stesso della preghiera. Anche il secondo Salmo, sotto certi aspetti, non è una preghiera diretta, un colloquio. Ci sembra che piuttosto prepari alla preghiera, che voglia insegnare all'anima quale debba essere la preghiera. Leggiamo dunque questo salmo per avere prima un'idea complessiva dell'insegnamento ispirato che vuol darci l'amore divino. E lo leggo sempre nella traduzione di Fiorenza Monti Amoroso. Perché complottano le genti e le nazioni tramano vanità? Si schierano i re della terra e i potenti congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto. Spezziamo le loro catene e gettiamo via da noi i loro legami. Colui che è assiso nei cieli ride, e il Signore si fa beffe di loro. Allora parla ad essi nella sua collera e nel suo furore li sgomenta. Ma io ho unto il mio re su Sion, il mio monte santo. Annuncerò il decreto del Signore. Egli ha detto a me: mio figlio tu sei, io oggi ti ho generato. Chiedi a me e ti darò le genti come tua eredità e come tuo dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di un artigiano le frantumerai. E ora, o re, riflettete, correggetevi, o giudici della terra. Servite il Signore con timore ed esultate con tremore. Onorate il figlio affinché non si adiri e voi smarriate la via, perché divamperà in un attimo la sua ira. Felici tutti coloro che si rifugiano in lui. Sempre il commentatore anonimo. Il Salmo 2 e il Salmo 110 sono i salmi messianici più famosi. Ambrogio chiama il Salmo 2 il canto del Natale di Cristo. Sullo sfondo del Carme si staglia la liturgia di incoronazione di un sovrano ebraico. I versetti da 1 a 3 evocano una tensione. Si odono rumori di guerra, voci sommesse di congiure, di ribellioni, di tensioni. Ogni interregno è una fase politica delicata, non solo a causa del vuoto di potere che causa intrighi di palazzo, ma soprattutto i vassalli ne approfittavano per scrollarsi di dosso il peso del potere centrale. Questo aspetto concreto è percepibile nella strofa iniziale e in quella finale del Salmo, versetti da 1 a 3 e versetti da 10 a 12. Nella prima strofa, la rivolta dei re vassalli trova la pronta risposta di Yahweh, che protegge il suo Messia. Il termine ebraico significa in origine unto, da cui poi consacrato. Nella strofa finale ricompaiono sempre i re vassalli. I principi gustano già la vittoria e si stanno preparando ad abbattere il fragile giovane re, versetti 1-2. Ora però sono zittiti e costretti alla sottomissione a Yahweh e al suo Messia. Le parole dette di nascosto sono svelate al mondo intero. Spezziamo i loro legami, gettiamo via il loro giogo. Versetto 3. Ecco la figura maestosa di Yahweh assiso in trono. Egli rompe il silenzio con un riso ironico, fonte di terrore ed espressione di superiorità nei confronti di ogni forma di ribellione. Versetti da 4 a 6. Il Signore stesso si è alleato col suo giovane re, gettando in campo il peso della sua superiorità. Al centro vi sta la solenne dichiarazione divina: io ho insediato il mio re, dove il verbo usato consacrare, nasakti nel testo, allude alla consacrazione regale. Il piccolo re di Sion è ricoperto dalla maestosa figura di Dio. Nella storia dell'interpretazione, questa minuscola figura di re, in balia dei grandi e difeso solo da Dio, diverrà immagine del Messia, re atteso. Dopo l'azione potente di Yahweh, in difesa del suo eletto, tocca al sovrano stesso prendere la parola. Egli declama quello che è il protocollo regale, il documento che legittima il potere sovrano del re davidico come luogotenente di Dio sulla terra. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Versetto 7b. Il documento proclama la filiazione divina del sovrano. Nelle culture coeve del vicino Oriente antico ci sono molte testimonianze di re che sono dichiarati di stirpe divina in quanto generati dalle divinità loro protettrici. In Israele c'è però una differenza. Il re non è di nascita divina, lo è per elezione divina. Il decreto del Salmo afferma che il sovrano è stato adottato da Dio. Implicitamente viene aperta la strada che nel Nuovo Testamento vedrà i cristiani definiti figli adottivi. Nelle lettere di Paolo. Nel Nuovo Testamento il Salmo è stato letto come figura di Gesù, il Cristo. Egli però attua pienamente da sé il decreto, perché è figlio generato e non adottato. Egli è il figlio unigenito del Padre, Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18, quello che nei sovrani davidici solo parzialmente e a volte in maniera oscura era solo addombrato, risplende in tutto il suo splendore in Gesù, che è figlio di Abramo, figlio di Davide, Matteo capitolo 1 versetto 1, in cui si ricapitolano tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Lettera agli Efesini capitolo 1 versetto 10. Tornando a quanto scrive a proposito di questo salmo Don Divo Barsotti, leggo: qual è il contenuto della preghiera? viene detto in questi pochi versetti. È, in concreto, il regno di Dio, il disegno divino che ha compimento nell'incarnazione del Verbo e più ancora che nell'incarnazione, nella glorificazione finale del Cristo. La preghiera dell'uomo ha il suo contenuto in questo ordine divino, cioè io posso parlare a Dio solo in conseguenza di una sua parola che egli dice a me. Io non entro in rapporto con Dio che attraverso quelle vie che egli stesso per primo ha tracciato per l'incontro con me. È per la via onde egli è disceso che l'anima risale. Il Dio a cui l'anima si rivolge è il Dio che è entrato nella storia dell'uomo, è il Dio che è intervenuto nella storia degli uomini attraverso l'elezione di Israele, prima l'incarnazione del Verbo, poi, e che ha coronato questo suo intervento con la glorificazione finale del Cristo, onde egli al termine su tutto stabilisce il suo impero. Qual è il contenuto della preghiera cristiana? Un grande esegeta ci insegna che la vera domanda del Padre nostro, che è la preghiera cristiana, non è, come spesso si dice, sia fatta la tua volontà, bensì che cosa voglia essere questa volontà. Noi vogliamo saperlo in concreto. La volontà di Dio si esprime con la seconda domanda: venga il tuo regno. La preghiera cristiana è: venga il tuo regno. È questa la volontà del Padre che si deve compiere. È in questo regno che si santifica il nome. È perché deve venire questo regno che gli uomini devono essere sostenuti, alimentati dalla grazia divina, devono essere perdonati da Dio, devono essere sottratti alla tentazione per essere strumenti, cooperatori del regno. La preghiera cristiana è: venga il tuo regno. Ma non è precisamente questo anche il contenuto della preghiera ebraica? Non è in questo salmo? Il venga il tuo regno ha una più magnifica spiegazione, una più ampia, più ricca interpretazione in questi versetti. È il regno di Dio che si instaura attraverso tutto il processo di una storia sacra, onde Dio esce dalla sua solitudine ed entra nella storia degli uomini, lascia il cielo e si abbassa fino alla terra e si fa compagno dell'uomo. Tutto questo in senso proprio, non in senso figurato. In Cristo Dio veramente si fa nostro compagno. Il Verbo diviene veramente il compagno del nostro cammino, il Verbo incarnato, tuttavia il Verbo. Il contenuto della preghiera è la storia sacra. Perché? Perché la preghiera dell'uomo è la cooperazione più grande che l'uomo possa offrire a Dio per il compimento dei suoi divini disegni. Cioè, nella nostra preghiera non chiediamo per noi, ma chiediamo per il Dio stesso, di cui siamo ministri, di cui siamo strumenti di azione e cooperatori. Nella preghiera l'uomo si unisce a Dio nel compiere quella che è la sua volontà, il regno divino. Contenuto della preghiera dell'uomo è l'azione di Dio, a cui l'uomo deve associarsi, e si associa nell'implorare questa azione, nel farsi egli, attraverso la preghiera, uno strumento più efficace e meno indegno di cooperazione divina. Ma tutto questo ci sembra ancora soltanto marginale. Nel Salmo 2. Penetriamo lentamente, con una meditazione in cui lo Spirito medesimo ci illumini il senso nascosto di queste parole. Se vogliamo penetrare il senso segreto, occorre innanzitutto conoscere il senso meno segreto, più palese, più chiaro. Dobbiamo prima di tutto vedere il Salmo in una esegesi puramente letterale. Se il primo Salmo, come abbiamo visto, è di epoca tardiva, il secondo invece, nella comune interpretazione degli esegeti, è uno dei più antichi, forse veramente davidico, anche perché certe espressioni richiamano in modo preciso la profezia di Nathan a Davide. È molto probabile che il Salmo risalga a David, re di Israele, e in senso proprio, immediato, il Salmo potrebbe davvero essere uno degli oracoli che erano frequenti nell'antichità, non soltanto in Israele, ma anche in altri popoli: Assiria, Egitto, Siria, Babilonia, oracoli in cui il re proclama la sua invincibilità di fronte ai nemici, la sua forza contro coloro che si ribellavano, e proclamava e annunciava già anche il castigo futuro: li avrebbe stritolati e ridotti al nulla, perché il re, una volta consacrato, ha la protezione del suo Dio. Questo salmo, se si pone a fronte di tanti oracoli, anche egiziani o assiro-babilonesi, sembra essere uno fra i tanti. È l'espressione della forza di un re, della sua fiducia nella protezione divina, perciò anche nella sua vittoria sui nemici. E la vittoria, naturalmente, ha il suo fondamento nel fatto che il re ha sempre un carattere sacro, non soltanto in Israele, ma in tutto l'Oriente, e sempre anche il rappresentante di Dio, quando non sia perfino figlio di Dio come il faraone. Come avviene tante altre volte nella scrittura, Davide assume le forme, i modi di pensare e di sentire anche dei popoli vicini, naturalmente per ispirazione divina, e dona un contenuto nuovo a quel linguaggio. A proposito di questo salmo, più che di un contenuto nuovo, si deve parlare di una certezza nuova, perché il Dio a cui Davide si affida è il vero Dio, e il vero Dio protegge realmente Davide, veramente l'ha scelto, consacrato e fatto diventare il capostipite di una dinastia che rimarrà sempre, secondo la promessa fatta da Nathan. Negli oracoli degli altri popoli è dunque un vano linguaggio, una vana prosopopea di potere. Qui invece è l'espressione genuina, umile e fedele di una sicurezza soprannaturale che deriva da una profezia, da una promessa divina in senso proprio. David sarà vincitore, dunque, su coloro che insorgono contro di lui. Se si pensa alla vita di David, non avremo difficoltà a riconoscere la possibilità che egli veramente abbia scritto questo salmo. Quanti nemici nel suo regno! È da credere quanto all'inizio i discendenti di Saul abbiano reso difficile l'esercizio del suo potere regio. Il fatto stesso che egli li uccida tutti, tranne lo storpio che però tiene in casa sua, ci dimostra che non doveva essere infrequente il tentativo di una rivolta, persino da parte delle 10 tribù che l'avevano riconosciuto a Hebron come re di Giuda. D'altra parte, anche in seguito sorgono dei nemici, ma David proclama che, sicuro della protezione divina, egli li annienterà, perché egli è colui che Dio ha scelto. E se David è figura del Messia, naturalmente questo salmo, in senso tipico ma vero, è anche messianico. E che sia un salmo messianico ce lo insegna proprio il Nuovo Testamento, che si riferisce a questo salmo per parlarci del Cristo. Dobbiamo dire di più. Se quando fu scritto ebbe come senso proprio il riferimento soltanto a David, in seguito, lungo i secoli, anche dopo che la monarchia ebbe fine, nella tradizione di Israele il Salmo perse il suo riferimento ai singoli re, per assumere un senso propriamente messianico, non più tipico soltanto, ma proprio e letterale. Così si spiega come il carattere messianico del Salmo non soltanto non sia stato negato, ma sia stato affermato dalla Chiesa in un modo così chiaro ed evidente. Negare questo senso sarebbe oggi per noi un andare contro un'interpretazione autentica della Chiesa. Questo in un'esegesi letterale, che però ci fa vedere nel Salmo non più allora soltanto la sicurezza di David, ma la certezza della vittoria finale del Cristo. Ora, da questa esegesi letterale, è facile passare ad una meditazione che, approfondendo i temi, divenga per l'anima vero nutrimento di vita, vero alimento di preghiera. Noi siamo degli oranti in quanto siamo inseriti in questo disegno divino. Noi siamo degli oranti in quanto siamo dell'esercito di Dio contro l'esercito dei nemici. La preghiera in se stessa è attuosa, è azione. Nella tua preghiera già tu fai parte di una lotta. Non sei al di fuori di questa lotta in cui cielo e terra, paradiso e inferno si scontrano. Tu ne fai parte e prendi le parti di uno con la U maiuscola. La preghiera è veramente un combattimento divino. Non per nulla l'Antico Testamento vede la preghiera in termini di dramma, di lotta. Si pensi ad Abramo nella preghiera per Sodoma, a Giacobbe sulle rive dello Yabok. Si abbia presente soprattutto Mosè sulla cima del Sinai, che lotta con Dio per la salvezza di tutto il suo popolo, e si vedrà che la preghiera è esempio di forza divina, ed è anche cooperazione. Massima cooperazione dell'uomo al compimento di una volontà che è il regno futuro. Regno con la R maiuscola. Perché le genti congiurano, perché invano cospirano i popoli? Rendersi conto di questo è già una cosa magnifica. La preghiera profetica, invece, ci dicono gli esegeti, è la preghiera in cui l'uomo, non più soltanto con la sua forza umana, ma con la stessa forza di Dio che tiene come alleato, si introduce nel mondo e agisce nella storia e opera e fa la storia divina, una storia di salvezza, una storia che ha il suo compimento precisamente nel regno di Yahweh, nel regno del Cristo per noi cristiani. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? L'uomo entra in medias res, dice Don Barsotti. Che potenza, che forza! L'anima si introduce, si getta nella mischia, invece di sottrarsi impaurita, ella assume ogni responsabilità. Non soltanto si mette dalla parte di Dio, ma consapevole della gigantesca lotta, essa afferma che combatte per colui che l'ha chiamata, che l'ha ingaggiata al combattimento e in cui ripone ogni sicurezza di vittoria. Sì, la preghiera cristiana prima di tutto è profetica. La mistica cristiana non è un sottrarsi alla storia e non è un annegare nella immensità divina in tal modo che l'uomo si disfaccia, perda se stesso in Dio. Ma è soltanto profetica la preghiera cristiana? L'ultimo versetto del Salmo, versetto 12, accenna lontanamente a un'alba nuova in cui la lotta è superata e l'anima, nell'abbandono al suo re, vive il pieno possesso dei beni messianici. La pace del regno, di un regno ormai stabilito per sempre, ormai sicuro da tutte le trame, da tutte le congiure e le rivolte. La mistica non esclude la profezia e la profezia non esclude la mistica. Nella mistica cristiana non vi è più lotta, rimane il colloquio del figlio col padre. Se cessa la lotta, non cessa però nella immutabilità divina il rapporto dell'amore. Nella sua pace infinita Dio rimane atto puro, atto, e anche la vita dell'anima è atto di amore, tutta atto di amore. Ma procediamo lentamente. Siamo sempre ai primi versetti del Salmo. L'uomo si getta, dicevamo, in medias res, si getta nel combattimento divino. Ecco la preghiera. La preghiera è il primo modo per noi di entrare nel regno. Tutta la vita dell'umanità è questo combattimento. E l'uomo deve far parte di un esercito, di uno o dell'altro. In che modo l'uomo si ingaggia nella battaglia? In che modo fa parte di un esercito? La preghiera non soltanto è l'ingaggiarsi, ma è già il far parte di un esercito, è già il combattere con un esercito contro l'altro. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme. Com'è concreto il linguaggio biblico? Com'è concreta sempre la rivelazione divina? La lotta contro Dio, la bestemmia degli uomini, hanno un loro termine preciso e possibile. Non si uccide Dio e non si offende Dio che nel Cristo. È nel Cristo che io raggiungo Dio. Lo posso raggiungere per amarlo, per abbracciarlo, per unirmi a Lui, ma lo posso raggiungere per bestemmiarlo, per dargli la morte. La crocifissione del Cristo. Tutti i popoli insorgono. Tutta la lotta dell'inferno contro Dio è la lotta dell'inferno contro Cristo, contro la sua Chiesa. Non si equivochi. Il Dio vero è il Dio che per noi unicamente si rivela nel volto di Gesù, che per noi si manifesta nel Cristo. Tutta la lotta è contro Cristo. Tutti i re della terra, iperbole facile ai popoli semiti, ma che per noi non è più iperbole perché ci fa vedere precisamente tutta la storia. Tutti i re, tutta la potenza del mondo è a servizio di Satana, il principe di questo mondo, contro Dio fatto presente per l'uomo in Cristo Signore. Ecco la vita del mondo, ecco la storia del mondo. Non c'è altra storia. Esiste soltanto Dio, anzi, Cristo e l'Anticristo. Al termine dei tempi, ognuno dei due combattenti rivelerà il suo volto. Cristo si rivelerà e si rivelerà il diavolo. Come nel Vangelo, la presenza di Cristo provoca la presenza di Satana, manifesta il maligno. Nell'Antico Testamento, invece, la rivelazione di Satana come opposto a Dio non c'è. Soltanto nel Nuovo Testamento l'inferno e il paradiso sono di fronte. L'inferno non esiste per l'Antico Testamento. Ora tutto è nel segno, tutto è sacramentale, cioè Dio si fa presente, ma attraverso dei segni che anche lo nascondono. E tutti siamo segni di Cristo, ma Cristo in noi si rivela e si nasconde. Al termine, però, tutti i veli cadranno. E si vedrà allora che la lotta era di due sole parti, di due sole fazioni, di due sole forze. Il Cristo e l'Anticristo, Dio e Satana. Tutta la storia è qui, tutta. se ne ride chi abita i cieli, Dio. Però l'unto suo quaggiù, è chiaro questo, non ne ride affatto. Il versetto non ci dice che ne rida l'unto. Il Cristo infatti muore sulla croce. Non è detto che ne ridano coloro che fanno parte dell'esercito che combatte per lui, per l'unto, per il Messia. Ne ride soltanto l'abitatore dei cieli, la sicurezza di Dio. È sottratta la vittoria al potere di questi principi della terra, delle genti che insorgono contro il Cristo. La vittoria è sottratta perché l'abitatore dei cieli, colui che l'unto rappresenta e fa presente quaggiù, Dio, è intangibile, è irraggiungibile. Possono raggiungere l'unto, ma non possono raggiungere mai colui che egli rappresenta. Così, pur essendo una lotta furibonda, pur essendo un combattimento feroce che dura tutto lo spessore del tempo, questa lotta non è per il Signore che un gioco divino. Il Signore se ne ride. Il Signore gioca divinamente. Ludes in orbe terrarum. Tu giochi su tutta la faccia della terra. Non è che un gioco. Ma ad un tratto si accenderà la sua ira. Questo ad un tratto cosa significa? È importante. L'azione di Dio è sempre subitanea. La presenza di Dio si impone in tal modo che opera istantaneamente. Così al giudizio divino, alla fine. Beato chi in lui si rifugia. O anche al plurale, beati coloro che in lui si rifugiano. Salmo 2, versetto 12. A questo tramare di popoli, ecco, risponde l'atto di coloro che, riconoscendo la sovranità dell'unto, si abbandonano a questa sua sovranità. Da ultimo, il Salmo non richiede soltanto un riconoscimento di Dio nel timore, cioè un vassallaggio, un essere servi, ma un confidarsi, un abbandonarsi alla sua protezione e alla sua difesa. Le citazioni dei testi di Don Divo Barsotti, sempre da www.figlididio.it.